su per giù. Mi interessava solo avere un avvenire e nessun consiglio volevo sentire. Curi, non mi soddisfava il collocamento, neanche quella fabbrichetta di cemento. Ma volevo fare parte di un'elite dirigente per sentire il mio nome tra la gente. Così cominciai l'arrampicata sociale, usando ogni mezzo mi sentivo geniale. Finalmente ero giunto dove volevo arrivare, mega presidente, direttore generale, mega presidente, direttore universale, mega presidente, direttore generale, mega presidente, direttore generale.